Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis, ancora una puntata questa sera dedicata al mondo del fintech. Facciamo infatti il punto su un nuovo tipo di mercato finanziario peer-to-peer che si sta sviluppando e che potrebbe dare una mano, come anche il prestito peer-to-peer di cui abbiamo parlato recentemente, ad allargare l'accesso al credito e a renderlo anche meno costoso. Parliamo del trading dei crediti commerciali, che si è consolidato nel mondo negli ultimi 5 anni con volumi che oggi sono dell'ordine dei miliardi negli USA e delle centinaia di milioni in UK e anche in Germania, e che in Italia ha invece iniziato a muovere i primi passi da meno di un anno. Per parlarcene abbiamo ancora una volta il nostro ospite Francesco Sacco, docente di economia all'Università dell'Insubria di Varese, all'Università Bocconi a Milano e anche membro del tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale della Presidenza del Consiglio. Buonasera Sacco. Buonasera a tutti. Eccoci qua. Allora, come funziona, che cos'è anche più precisamente questa sorta di commercio delle fatture peer-to-peer? Allora, gli anticipi su fattura sono un antico prodotto bancario. Fatto online, la forma è un po' diversa, ma si ricalcano un po' gli stessi modi. Per cui l'azienda che vuole scontare le proprie fatture, una piccola e media azienda in generale, carica le proprie fatture che vuole mettere allo sconto su una piattaforma online. Che vuole offrire come garanzia per avere un prestito, sostanzialmente, più o meno. Esatto. Queste fatture sulla piattaforma vengono messe all'asta. All'asta degli investitori le comprano e gli investitori, a fronte dell'acquisto in asta, versano all'incirca il 90% dell'acconto che viene ricevuto subito dalla piccola e media impresa. Il 10% di differenza viene poi versato quando viene il pagamento della fattura da parte del debitore che viene ceduto alla scadenza della fattura stessa e al saldo di tutta quanta l'operazione. Ecco, quali sono i vantaggi di questo sistema che quindi passa attraverso una piattaforma internet che intermedia queste transazioni rispetto a passare attraverso una banca? Il primo vantaggio è che è assolutamente trasparente ed è molto veloce da utilizzarsi. Il secondo vantaggio è che la risposta è molto veloce. Dopo la presentazione dell'elenco dei venditori, l'assegnazione in asta, in una settimana vengono dati i bilanci e si hanno i soldi in 3 giorni. Inoltre i tassi di interesse sono molto più bassi o sono addirittura in linea, ma soprattutto si ha un'alternativa veloce per aziende che normalmente vengono emarginate dal sistema bancario in alternativa ai canali di finanziamento più tradizionali. Cioè ci sono molte piccole, soprattutto piccolissime imprese che non riuscirebbero mai a farsi riconoscere un prestito da una banca, che invece qui possono averlo. Ecco, e la cosa di fondo, proviamo a spiegarlo bene, perché sta in piedi? Perché io che investo in questa cosa, immaginiamo, e che quindi mi prendo i crediti di qualcun altro, io sto finanziando un'azienda che magari è piccola e piccolissima e quindi è rischiosa come operazione, ma lo sto facendo prendendo in garanzia delle fatture che provengono da un'azienda che è un buon pagatore. Quindi io assumo poco rischio, ma aiuto qualcuno che ha una caratteristica di maggiore rischiosità. È corretto? È correttissimo. E l'investitore, come suo ritorno, come suo vantaggio, ha un rendimento che oggi non è paragonabile a quello degli, insomma, gli investimenti, ecco, normali. Proviamo a dire qualche cifra qui. Allora, il rendimento lordo è all'incirca l'8%, la tassazione di un prodotto del genere è al 26%, quindi è facile fare 2 conti che comunque quello che si riesce a mettersi in tasca senza dover dare nient'altro a nessuno è comunque molto interessante. Intorno al 6%. Tipici di questo tipo di mercato sono gente che comunque comprano attraverso un private banking oppure un family office, diciamo, gente con un patrimonio disponibile piuttosto cospicuo in genere. E tutto sommato non c'è, mi sembra di capire, neanche una grande competizione con le banche, sono concorrenti fino a un certo punto. Sono concorrenti fino a un certo punto perché le banche hanno difficoltà a servire e a prestare a queste piccole o micro imprese, perché sono micro e piccole imprese soprattutto, che però hanno dei rapporti commerciali anche con medie e grandi aziende. Essendo piccole imprese, oggi hanno molta difficoltà e sono penalizzate dal sistema di regole del mercato creditizio, quindi normalmente sono ai margini di questo mercato. Ma coloro che sono loro debitori, che devono pagare le fatture, normalmente sono aziende in una situazione molto migliore, quindi con un rating A, B, certo. Insomma, top class. Vicino. Qual è lo stadio di sviluppo e anche le prospettive rapidamente che possiamo immaginare qui in Italia? Allora, questo è un mercato che, se lo dobbiamo valutare guardando a quello che sta succedendo all'estero, allora Morgan Stanley ha fatto una ricerca sulla base della quale dice che entro il 2020 il 10% del mercato dei prestiti non garantiti alle piccole e medie imprese sarà coperto da tutto quello del mondo dell'alternative finance, e che in Cina, Regno Unito, Australia, più o meno i numeri saranno su questo livello. Parliamo quindi di un mercato globale che sarà tra i 150 e i 500 miliardi di dollari entro il 2020. Non è improbabile in Italia avere un grosso sviluppo, perché se guardiamo solo i numeri del credit crunch, esatto, il credit crunch che c'è stato in Italia complessivo dal 2011 a oggi è stato di circa 110 miliardi, si è passato da 910 miliardi di crediti complessivi, no, dati alle imprese a circa 800. Questo vuol dire che questi soldi prima venivano prestati, oggi non vengono prestati, quello è uno spazio senz'altro aperto. Grazie ancora una volta Francesco Sacco, ormai il nostro riferimento per queste tematiche. Grazie, buonasera a tutti.